Invece sì. Non vedi. È venerdì. Venerdì. Cos'è? Ma cos'è? Ma come dare? Chiedo asilo. Di nuovo. Certo, Franco. Perché? Perché è venerdì. Sì, sì, è venerdì. Dico meglio. È venerdì. Vabbè, ancora qui con una roba del venerdì. Non è mai stato un giorno come gli altri il venerdì. Bisogna ogni volta stupirsi, no, senti, Drago. Kappa, cioè, tu pensa invece al palinsesto della radio, che esemplifica benissimo la realtà. Il venerdì è un giorno uguale agli altri. Cioè, il palinsesto del venerdì è uguale al palinsesto del giovedì, quello del mercoledì, a quello del martedì e perfino a quello del lunedì. Quindi, no, questo sulla carta. Alla carte. Cosa? Alla carte. Alla carte. Sì. Perché poi invece, nella realtà dei fatti, il venerdì è il preludio al weekend. Il weekend. Nel weekend tutti diventano pazzi, dimenticano le brutture della settimana. Se ci va proprio, basta il weekend per dimenticare venerdì. Le brutture di questo periodo. Da che venerdì è venerdì, è sempre stato un po' speciale. Vabbè, per venerdì. Te senz'altro, che è un anno circa che cerchi inutilmente di coinvolgere l'Italia. Ma a santificare il venerdì. Ma vai su Facebook e guarda quanti ascoltatori postano il loro urlo di libertà. Ma come urlo di libertà? Adesso non ci sono alcuni che scrivono semplicemente venerdì e così facendo dicono tutto, no? Noi ci capiamo, io e questi ascoltatori. Sì, il venerdì. Ho capito, capo, però sai com'è con questi social network, no? Com'è? Tu associ i social network alla radio e si crea quel consenso spicciolo che facciamo presto a chiamare culto, ma che in realtà si tratta di piccoli riflessi di un mondo molto più complesso. Che Tito, cosa c'è? Ma cosa dici? Ah, niente. Batman! Oh, vedi? Fammi leggere. A Robin, qui sta di che c'è sta un ristorante su Agamilluccia de batte ostriche. Questo è un lavoro per Air Batman. Namo Robin! Te di sbrigà! In Italia il problema è che non c'è un maestro dei. Un maestro dei, cosa ridi? È un giorno dell'anno dedicato proprio agli insegnanti. Ah, maestro sì, tipo dei. Il giorno della memoria. Vabbè, sì, magari un po' meno tragico, però è una cosa così. Beh, sì. Tragico, la scuola italiana è tragica. Quindi... Infatti, poveri insegnanti, sempre trattati male da tutti. Se c'è da tagliare, il governo cosa fa? Taglia subito i fondi alle scuole. E poi leggi di quei poveri ragazzi che si portano la carta igienica da casa perché la scuola non se la può permettere. Vabbè, io avevo sentito della carta delle fotocopie, mica la carta igienica. No, hanno provato a usare la carta delle fotocopie come carta igienica, però poi hanno visto che non è il contrario invece. Anche può darsi. Comunque ai nostri maestri martiri dobbiamo tantissimo ed è una vergogna che non si sia mai pensato a un giorno per celebrarli. Si fa in tutta Europa il Maestro Day, quindi dai, vogliamo il Maestro Day anche perché in Italia. Perché in Italia, come dice Arbasino, si diventa un maestro solo dopo essere stati prima un promettente talento e poi un solito stronzo. Quindi Drago, bisognerebbe anche pensare a un promettente talento day e a un solito stronzo day. Solito stronzo day, me la segno. Gigo, sì. Sai che stanotte ho fatto un sogno, no? Ho fatto un sogno! E ho sognato che tu morivi, no? Tu morivi? No, tu morivi tu, il sogno era mio, no? Che eri a casa tua a tavola, no? Sì. E avevi davanti la pasta asciutta. Sì, no? La pasta asciutta! Tantissima pasta asciutta! Tipo 10 kg di pasta asciutta! 10 kg! Hai 4 formaggi come piace a te, no? 4 formaggi! E poi di fianco c'era il grana, no? Da mettere sopra. Il grana! E tu prendevi il cucchiaio, il mestolo. Il mestolo! E mettevi il grana sopra. E metti. E poi alla fine sei morto. Ma tu hai paura di morire? E morire? Io no. E io? Ma io non voglio morire. E io non voglio morire. E però prima o poi... Prima o poi? E prima o poi devi morire. E prima o poi devi morire tu? Ma io non voglio morire. E io non voglio morire. E quindi? E quindi? Tu sai mica dove è il bagno? Anche io magari adesso vado al bar perché e sai che mi faccio dare, vado in infermeria, faccio, sai quelli che fanno le autopsie, si mette quella roba sul naso per non sentire l'odore, è una roba che si mette qui. Deve fare la cacca. Siamo di nuovo a parlare di questo. Cioè, questi qua sono Screaming Jay Hawkins e Serge Gainsbourg. Noblesse oblige, allora, va bene. Quindi, l'argomento è di quelli nobili, quelli trattati sulle tavole del re. Quindi salutiamo tutti: Carmelo Lauricella, Nadia Zammiti, Alberto Caserini, Guido Bertolotti, Salvatore Iorio, Maria Grazia Guzmano. Chi? Chi? No, ma ancora.